24 mattino di Alessandro Milan. Siamo qui, buongiorno, alle 7:21 minuti in questo istante. Eccoci cari ascoltatori, siamo in diretta fino alle 9 come al solito. Oggi andremo a parlare ancora di terremoto, delle polemiche conseguenti con l'aumento della benzina. Aumento della benzina, 2 centesimi di accise sulla benzina. Avete fatto il pieno questa mattina, avete sovvenzionato la interminabile guerra d'Etiopia, la guerra d'Abissinia, e adesso anche 2 centesimi per il terremoto. Una scelta che è stata criticata. Parleremo anche della parata del 2 giugno, ancora le polemiche, fare o no questa parata, si faccia ma sobria. Avremo ospite anche il segretario della CISL, Raffaele Bonanni, questo alle 8:20, per parlare della vicenda anche delle persone che hanno perso la vita lavorando in questo terremoto. Tutto questo più avanti, allora andiamo subito a vedere cosa ci propongono i quotidiani in edicola. Giovedì 31 maggio, i titoli sono tutti declinati ancora, la situazione in Emilia davvero difficile. Il Sole 24 Ore, i danni del terremoto salgono a 5 miliardi, questo è il titolo. Per il Corriere della Sera, non vogliamo lasciare le nostre case. Repubblica, inchiesta sulla strage degli operai. La Stampa, l'Emilia prova a rialzarsi. Il Messaggero, sisma in Emilia, benzina più cara. Libero, tassano anche le macerie. Il Fatto Quotidiano, il disastro e la parata. Ci sono due foto a confronto. Il Giornale, noi paghiamo, loro no. L'Unità, aiutiamo l'Emilia. Il Manifesto sulla parata del 2 giugno, non ci marciate, questo è il titolo di apertura. Per Avvenire, allarmi inascoltati, da anni alcuni dossier denunciavano troppo basso il livello di rischio indicato, rischio sismico ovviamente. Insomma, questa è la vicenda di cui vedremo poi qualche articolo più avanti. Prima voglio partire dagli studi di settore. Allora, abbiamo sentito anche il giornale radio e sono stati comunicati i dati dal Dipartimento delle Finanze sulle dichiarazioni dei redditi del 2011 degli autonomi. Sono circa 3,5 milioni di contribuenti soggetti agli studi di settore. Il primo è che i redditi medi dichiarati nel 2011, anno di crisi, sono aumentati dell'1%, un aumento dunque minimo, l'1%. E poi ci sono le solite classifiche che troviamo. Il Sole 24 Ore, pagina 21, notai e farmacisti guidano la classifica dei redditi. Sono redditi medi, quindi c'è chi guadagna 100, c'è chi guadagna 1 e poi si fa la media. Questi sono i redditi medi degli studi di settori. La categoria che denuncia di più, i notai, 318.000 euro, con una differenza di più 2,4% rispetto all'anno precedente. Le farmacie al secondo posto, 109.000 euro, nessuna differenza, più o meno come sul 2009. Gli studi medici 69.000 euro, ma poi ovviamente ci sono alcune cifre che ad alcuni fanno storcere il naso, ad alcuni fanno mettere dei titoli in pagina. Gli avvocati in media 57.610 euro, un meno 1% rispetto al 2009. Poi non so, c'è tutta la classifica, cosa volete? Questi sono i primi 15, alcuni dei primi 15 che vi ho letto. Poi gli ultimi 15, le lavanderie 9.740 euro, le mercerie 7.930 euro, le discoteche hanno perso un 71,9%, non si va più a ballare, che succede? I titoli. Bar, alberghi e gioiellieri, redditi sotto 17.000 euro. Questo per esempio colpisce il Corriere della Sera. Ebbene sì, i gestori di bar gestiscono i bar per circa 16-17.000 euro, redditi medi degli studi di settore. Così i gioiellieri, ogni anno si va a colpire e colpisce questa categoria. Gioiellieri, 17.000 euro, erano 16.000 prima. Nell'ultima dichiarazione, con il raffronto, adesso hanno 1.000 euro in più di media, secondo gli studi di settore. Anche per Repubblica, bar, alberghi e taxi, redditi sotto 17.000 euro, i nostri amici tassisti, tantissimi ci seguono, ci ascoltano. anche per Avvenire colpisce le categorie orefici e gestori di bar, lavori da 17.000 euro, non di più. Mentre La Stampa va a cogliere sui gioiellieri sotto i 17.000 euro di denuncia, secondo gli studi di settore. I ristoratori e tassisti dichiarano invece meno di 15.000 euro. Ognuno poi faccia i giudizi che vuole. C'è chi giudica che siano sbagliati gli studi di settore, sono da rivedere, sono da correggere. C'è chi subito lo sentiamo, dirà: ah, evasione fiscale, evasori, categorie di evasori. In ogni caso i dati sono lì, li potete leggere ovunque, la classifica sul Sole 24 Ore, pagina 21, tutta dettagliata con chi denuncia di più, chi denuncia di meno. Poi vorrei andare su Repubblica. Io, sapete, ogni tanto torna Fabrizio Corona e mi chiedo sempre, ma una persona del genere, che è stata peraltro anche in carcere, con tutta la fedina penale che si legge, come funziona il cumulo, il non cumulo delle vicende, per cui si trova sempre libero? Ma sono contento per lui, a nessuno assolutamente si può mai augurare il carcere. Sta di fatto che l'ultima di Corona è questa, l'antimafia di Milano, Corona sorvegliato speciale, una vicenda che trovate su Repubblica, appunto, a pagina 27, Sandro De Riccardis. Alla fine il conto arriva sempre e dopo l'ennesima patente ritirata, i ricatti a colpi di foto ai VIP, le risse con la polizia, le banconote false per la benzina, il video del divorzio girato di nascosto in tribunale, la pistola rubata trovata in casa, i viaggi in Bentley senza pagare il telepass in autostrada, ecco che arriva il conto anche per Fabrizio Corona. Glielo ha presentato la direzione distrettuale antimafia di Milano, potrebbe essere molto salato, si usa il condizionale perché è una richiesta della direzione distrettuale antimafia, non è una decisione, è una richiesta. 3 anni e 6 mesi di sorveglianza speciale, anche se senza l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Sarebbe comunque una pesante limitazione della libertà personale. Vorrebbe dire ritiro della patente, obbligo di comunicazione di ogni spostamento della propria casa, da non lasciare comunque mai di notte, mai per incontrare pregiudicati. La sorveglianza speciale si applica, secondo una legge del 1956, alle persone ritenute pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità. E per l'ex agente dei VIP, la valutazione di pericolosità nasce dal ricco curriculum di denunce, un elenco di 73 episodi, 73, tra precedenti, controlli di polizia, 12 casi in cui si è vista ritirata la patente, 12 casi, 12 volte ne ha ritirato la patente, ci picchia. Una sequela di procedimenti già conclusi con una condanna o tuttora in corso, nell'elenco compaiono reati che vanno dalla resistenza a pubblico ufficiale, violazione degli obblighi familiari, dichiarazione infedele dei redditi, associazione per delinquere finalizzata alla prostituzione, le imputazioni di uso di monete false, estorsione, minaccia, diffamazione, truffa, armi, ricettazione. E vabbè, ora spetterà ai giudici decidere. La richiesta della direzione distrettuale antimafia è questa. Diamogli la patente. Vabbè, questa mi è venuta così. Diamogli il patentino di sorvegliato speciale, almeno una patente valida ce l'ha, per 3 anni e 6 mesi. Ora i giudici dovranno decidere sul destino di Fabrizio Corona, che la DDA vuol sorvegliare, perché uomo che mette a dubbio la pubblica moralità e la sicurezza, per 42 mesi da sorvegliato, secondo me non durerebbe 4 giorni. Mi scrive un ascoltatore a dire: che faccio? Io faccio 110 km tutti i giorni, pago io la benzina, tra l'altro ci sono i miei genitori che vivono nelle zone colpite dal sisma e sono venuti a vivere da me, io faccio 110 km al giorno per andare a lavorare, pago io la benzina. Caro Filippo che mi scrivi, non so, io non gliela pago. Non so, si rivolga a Monti, ma credo neanche Monti gliela paga l'aumento della benzina. Sta di fatto che questo è una delle polemiche legate al terremoto. Comunque i giornali oggi si concentrano su 2 temi, appunto, questo, quello della parata del 2 giugno e quello anche della vicenda dei capannoni crollati con anche il PM, il capo della procura di Modena, che ha detto delle parole molto dure, sarà un'inchiesta lunga e soprattutto ha detto è stato un terremoto certo molto forte, ma a livello nazionale la politica industriale sui capannoni è stata suicida. Si è spesso seguita la logica del risparmio e ora paghiamo un prezzo altissimo. Un terreno molto delicato sul quale subito il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, come ricorda anche il Sole 24 Ore, pagina 6, ha detto sono polemiche artificiose sui capannoni, che erano in assoluta normalità, e la zona su cui sono costruiti, e questo dalle mappe sismiche, questo è un grave difetto dell'Italia, non erano considerate zone ad alto rischio sismico, anche perché le mappe sono datate ormai. Ma su questo certo i giornali si concentrano, per esempio il Quotidiano Nazionale intervista uno sconvolto Mattia Ravizza, titolare insieme ai genitori della Emotronic di Medolla, una delle aziende del biomedicale che è stata devastata, come tutto il comparto che è stato seriamente danneggiato. 4 lavoratori morti nel crollo di lunedì. Dice: avevamo fatto fare una perizia da un ingegnere privato, c'è un documento che attesta l'agibilità, danni che erano contenuti, il 20 maggio era caduto solo qualche controsoffitto, io stesso ero al lavoro. Tra l'altro in un capannone di Mirandola che è ancora chiuso perché c'erano danni seri e paradossalmente quello è rimasto in piedi, mentre è crollato quello che non aveva subito grandi danni. Riguarda i capannoni, dice, lo abbiamo preso 2 anni fa, prima c'era un'altra ditta che era fallito, non so chi l'ha costruito, non so come, sicuramente questo evento impone di ricostruire in modo diverso. C'è la polemica secondo il Secolo XIX sulle perizie, appunto, cioè chiedere un arrivo della Protezione Civile con gli ingegneri che dovevano rilasciare documenti di agibilità dei capannoni, era una procedura lenta e denuncia il Secolo XIX, quindi molti si sono rivolti a periti privati, come anche questo imprenditore che ha detto ci siamo rivolti a un perito privato, ma abbiamo il documento di agibilità. Ma certo per il Secolo XIX qualcuno si è rivolto addirittura a geometri e non a ingegneri. C'è Repubblica che dall'inviato da Medolla Michele Smargiassi racconta anche la vicenda di molti operai che dicono qui non si può perdere tempo per un sistema produttivo che è stato colpito, gli operai tornano in fabbrica anche perché non ci sono alternative, dice per ora, dice per esempio Mauro Fabbri, lavoratore di nuovo al suo posto di lavoro, non siamo i tipi che si mettono in fila alla Caritas, dobbiamo tornare a lavorare. Dobbiamo tornare ad avere un futuro, dobbiamo garantire la produzione perché altrimenti tutto il sistema rischia di rimanere in ritardo visto che il mercato certo non aspetta. Comunque questa è uno dei temi affrontati dai giornali. Intanto si contano ovviamente i danni, secondo il Sole 24 Ore con Ilaria Vesentini a pagina 8, sono quasi 5 i miliardi, ovviamente è una stima, dei danni del sisma. A casa al momento ci sono 20.000 persone, in provincia di Modena c'è il 95% dei capannoni lesionato, tanto che l'economista Mario De Aglio in prima pagina sulla Stampa firma un editoriale dal titolo «Le imprese non devono crollare». Scrive De Aglio: «Se un nemico avesse dovuto scegliere una zona produttiva da bombardare per provocare in un territorio limitato il massimo danno possibile all'Italia, ben difficilmente avrebbe potuto trovare un obiettivo migliore dell'area colpita dai 2 terremoti in rapidissima successione. Sono radicate in queste zone imprese piccole o medie, poco burocratiche, molto vitali, aperte senza traumi alla globalizzazione. Hanno rappresentato negli anni bui dell'economia italiana il progetto di un futuro possibile per la crescita del paese. Operano in settori molto diversi, coi quali l'Italia cerca di entrare in un'economia globale, dalle piastrelle agli apparecchi diagnostici, all'avventura agricola del parmigiano. Hanno dimostrato di saper combinare con successo organizzazioni di produzione, l'avanguardia e organizzazioni di vendita moderne. Insomma, dice De Aglio, il paese semplicemente non può permettersi di perdere settori come questi in un particolare momento in cui al terremoto fisico si aggiunge anche il terremoto finanziario. Per questo non è proponibile oggi commiserare prima di ricostruire, lasciar sedimentare le tendopoli in attesa di riedificazioni più o meno lontane. Nell'economia di oggi un fermo di 4-6 mesi per imprese e settori lanciati in un'avventura globale può significare perdite di quote di mercato con effetti assai più distruttivi per l'economia di quelli dei capannoni crollati. Insomma, come dire, De Aglio dice, non si può, i mercati non aspettano, soprattutto i mercati globalizzati, e quindi bisogna cercare di fare in modo di garantire la produttività di questo settore, di questi settori, di vari comparti che sono stati duramente colpiti. Certo, si contano anche le vittime, 17, ci sono moltissimi sfollati, ci sono i danni, appunto, e c'è la decisione del governo di fare cosa? Di mettere mano al portafogli degli italiani, come con il più classico provvedimento annunciato ieri e arrivato subito al Consiglio dei Ministri straordinario, l'aumento dell'accise sulla benzina. Ora sentiamo già le solite polemiche giuste, che paghiamo ancora una parte dell'accise sulla benzina per la guerra in Abissinia, per la guerra in Etiopia, per la crisi del canale di Suez, tutte vicende che spero prima o poi si concludano. Insomma, la guerra d'Abissinia avrà una fine prima o poi, no? La guerra d'Etiopia avrà una fine, no? Ci sarà un trattato di pace con l'Etiopia che possiamo firmare per porre fine a questa vicenda. Cioè, avremo superato l'emergenza del terremoto del Belice, non so, avremo superato l'emergenza del terremoto del Friuli, si spera. Quando la supereremo ce lo facciano sapere, in modo che non saremo più in guerra con l'Etiopia e potremo non pagare più l'accise. Ironia a parte, rincari sulla benzina per la ricostruzione, tra l'altro colpisce la decisione del ministro Passera, che ha fatto un appello ai petrolieri dicendo: noi aumentiamo l'accisa sulla benzina di due centesimi al litro, però voi petrolieri cercate di ridurre un po' i margini di guadagno in modo da compensare questa cosa, così insomma ci rimettete voi. E infatti Passera ai petrolieri: giù i prezzi. Beh, in prima pagina del Sole 24 Ore c'è un commento di Fabrizio Forché: la fantasia di Alice, affidarsi alla buona volontà delle compagnie petrolifere per evitare che l'aumento di due centesimi dell'accisa sulla benzina si trasmetta ai consumatori, è degno della fantasia di Lewis Carroll. La sua Alice non sarebbe arrivata tanto, poco male si direbbe se non fosse che saranno i cittadini a farsi carico di tanta ingenuità. Ancor peggio se il ricorso alle risorse potenziali della spending review dovesse rendere inevitabile l'aumento dell'IVA. Da un governo di esperti ti aspetti soluzioni meno scontate. Molto più duro, in prima pagina del giornale, Vittorio Feltri. Il titolo del giornale è: noi paghiamo, loro no. E sulla proposta dell'aumento della benzina ha colto di sorpresa perfino Corrado Passera, scrive Feltri, il quale, consapevole che tecnicamente trattasi di puttanata gigantesca, ha cercato di aggiustare il tiro dicendo: siamo certi che, date le drammatiche circostanze, anche le aziende petrolifere vorranno fare la loro parte. Figurarsi, alla puttanata si è così aggiunta un'ingenuità da Boy Scout. Da quando in qua di fatti i petrolieri vanno incontro ai clienti? Chiunque sa che questi signori agiscono sempre solo per arricchirsi. Se il prezzo al barile sale, loro automaticamente e immediatamente alzano il prezzo al litro, cioè si adeguano al mercato. Se viceversa il prezzo del barile cala, fanno gli ignori e non adeguano un bel nulla. Così Vittorio Feltri in prima pagina del giornale, che tra l'altro denuncia un fatto di questo genere, che nasce dalla denuncia di un lettore del giornale, tale Francesco Baldisserotto, che racconta a Gabriele Villa, pagina 3, c'è rimasto male perché è andato in banca, Cassa di Risparmio del Veneto in via Romea a Legnaro, è andato lì, voleva fare il suo bonifico per dare un aiuto concreto ai terremotati e si è visto dire: beh, ci vuole però su questo una commissione di 5,5 euro per il bonifico, al che questo signore sdegnato ha detto: rifiuto di fare, e mi dispiace per i terremotati, ma mi rifiuto di fare questo versamento per 5 euro di commissione. Così le banche lucrano sulla solidarietà, così è il titolo del giornale, sui bonifici pro sisma arrivano fino a 5 euro di commissione. E perché l'ABI, cioè l'Associazione dei Bancari, non prevede e non prende provvedimenti su questa situazione? Anche il Fatto Quotidiano: i danni li paghiamo noi, le misure del governo per il sisma, l'aumento delle accise e Libero, la cura è peggio del male. C'è poi tutta la polemica sul 2 giugno, la parata sobria, da cui riparto dopo il traffico perché è tutta da ridere. Allora la parata sobria sarà sobria, quella del 2 giugno. Cosa vuol dire che sarà sobria? Non ci saranno le frecce tricolori, non sfileranno i cavalli, poveri cavalli. Almeno gli diano un po' di biada, spero non li tengano per risparmiare sulla biada dei cavalli da destinare, ovviamente come risparmio ai terremotati. Spero che almeno ecco, li sfamino i cavalli, già che non li fanno sfilare. Comunque, parata senza carri, cavalli e frecce tricolori, così il Corriere della Sera, pagina 13. La rete ha riabilitato, scrive Libero, addirittura con il titolo Nostalgia Coniglia. Ricordate Arnaldo Forlani, detto Coniglio Mannaro, riabilitato, l'eroe della rete, perché da ministro della difesa, dopo il terremoto del Friuli del 76 con 1000 morti, ricordiamolo, 1000 morti, annunciò appunto l'annullamento della parata del 2 giugno. Duro colpo per i sostenitori di questa no 2 giugno sarà scoprire che Arnaldo Forlani oggi dice: sono d'accordissimo con la decisione di Napolitano di far svolgere la parata sobria. Non farla non avrebbe portato alcun risparmio. La macchina organizzativa era già partita, mentre nel 76 avemmo più tempo per prendere la decisione e non era stata stanziata ancora una lira. E poi ricordo 1000 morti e i militari furono utilizzati per andare a dare una mano concretamente. Comunque, insomma, mi pare una polemica stucchevole, ma ne parleremo, visto che la rete, Twitter e anche gran parte del mondo politico dice è uno scandalo fare questa parata del 2 giugno in questo momento. Due notizie dalla politica. Il Corriere della Sera annuncia, pagina 18, che la mossa di Bersani è di dare un sì alla lista civica di Saviano. Così titola il Corriere con Maria Teresa Meli. Bersani avrebbe detto, con la linea del partito, l'idea è quella di annunciare la propria candidatura alla premiership, di fare le primarie e di dire farsi affiancare da una lista civica che dovrebbe coinvolgere un personaggio come Roberto Saviano. Qualche bersaniano ha alzato il sopracciglio, D'Alema pare che mal digerisca la cosa, così dice Maria Teresa Meli. Sta di fatto che chissà, Saviano confermerà, smentirà. Si attende in giornata. C'è poi, anticipata dai giornali, dal Corriere della Sera, visto che è l'inserto 7 di domani, la prima intervista di Beppe Grillo. Gian Antonio Stella lo ha intervistato, domani la leggeremo, ma oggi ci sono già le anticipazioni. Cosa dice Grillo quando andremo a governare, nel senso quando avevo più potere anche in Parlamento? In futuro i responsabili politici saranno giudicati e dovranno restituire i soldi che ha rubato, come i mafiosi, ma non con processi, ma un giudizio pubblico. Cittadini estratti a sorte, incensurati, che diranno quali lavori socialmente utili far fare a questa gente che ha derubato il paese. Pubblica gogna per i politici ladri. E riguardo alle accuse di essere volgare, ma che volgare, sono un gentleman in confronto a tanti politici che in questi anni ne han dette e fatte di tutti i colori. Mi fa ridere che accusino me, la gente lo sa, io sono Lord Brummel in confronto, io non sono volgare nella mia vita. È che a volte le parole devono essere forti per esprimere un concetto. Insomma, un Beppe Grillo che parla tutto tondo di intanto del successo elettorale del suo movimento 5 Stelle. Trovate ancora sui giornali moltissimo della vicenda del Papa, che ieri ha detto: ho piena fiducia nei miei collaboratori, ma certo ha espresso grande tristezza nel mio cuore per quello che sta succedendo. Tra l'altro questo mi permette di citare la prima di copertina del settimanale Panorama, Chi salverà il Papa tradito, cioè la vera storia della guerra tra cardinali italiani che sta sconvolgendo la Chiesa. Lo segnala a maggior ragione perché da questa settimana Panorama cambia totalmente, una rivoluzione non solo dal punto di vista grafico, per esempio mi colpisce, non ci sono degli editorialisti storici, Giuliano Ferrara, Bruno Vespa, e altri ancora, che sono stati tolti, e l'idea del direttore è di fare un Panorama con articoli molto più snelli, molto più incisivi, molto più ficcanti. La copertina è dedicata appunto al Papa, quindi un tema molto molto attuale, la vicenda dei corvi, i corvi che girano e si aggirano sul Vaticano. Da oggi dunque un panorama totalmente diverso. Ancora per quel che riguarda la cronaca, i Marò in India. Beh, lo sapete, i due Marò liberi su cauzione non potranno lasciare Coci. Dovrebbero a giorni essere trasferiti, il tempo per perfezionare le procedure burocratiche e uscire da un ex riformatorio e andare all'ambasciata italiana. Comunque, insomma, dovranno presentarsi ogni mattina tra le 10 e le 11 ogni volta che gli sarà richiesto al posto di polizia. Vabbè, ma scappate, cioè, che problema c'è? Io la suggerisco così, ma voglio dire, per carità, poi dobbiamo fare tutto secondo la sobrietà che ci impongono le relazioni internazionali. Un qualsiasi paese organizzerebbe un blitz per farli scappare nel momento in cui saranno liberi su cauzione. Libero lo scrive proprio a pagina 17: sarà più facile farli scappare con l'aiuto degli agenti segreti. Vabbè, insomma, non è che è una cosa che suggeriamo all'India, state attenti, però liberi su cauzione, visto che insomma di giustizia per ora ce n'è stata ben poca su questa situazione. Una volta che uno sarà libero su cauzione. Ma noi non abbiamo suggerito nulla, per carità, non abbiamo suggerito nulla. Il calcio, per concludere, sparata Buffon, questo è il titolo di apertura della Gazzetta dello Sport. Sparata che il PM respinge. Buffon ha detto: è una vergogna le fughe di notizie, il blitz. Ha sparato, ha fatto un'uscita secondo qualcuno a vuoto, secondo qualcuno efficace. Per il Fatto Quotidiano è: che figura da Buffon. Ora c'è dentro anche forse il Napoli, si allarga l'inchiesta, un ex portiere che tira in ballo una presunta combine che coinvolge i difensori Paolo Cannavaro e Gianluca Grava, che ovviamente smentiscono tutto. Sta di fatto che insomma la vicenda calcio si allarga e Geno Gnocchi oggi col suo rompipallone sulla Gazzetta, con lui voglio chiudere, ci lascia così: Cosa Nostra ha fatto sapere che i calendari del prossimo campionato saranno diramati con i risultati delle gare. 24 mattino. Siamo qui alle 8:22, ben ritrovati da Alessandro Milan. Eccoci per parlare di terremoto. Non solo, voglio salutare il segretario della CISL, generale della CISL, Raffaele Bonanni. Buongiorno, segretario. Buongiorno. Senta, perché ieri lei insieme alla CGIL, al leader CGIL e il leader della UIL avete annunciato che il 2 giugno le manifestazioni sono annullate per andare in Emilia? Perché questa decisione? Ma perché questo lutto è importante, il terremoto ha sconvolto la vita civile e produttiva di quella realtà, è bene stare vicino alle popolazioni, tant'è vero saremo lì quel giorno stesso, e la manifestazione importante che noi avevamo programmato per il 2, che come si sa è festa della Repubblica, l'abbiamo rimandata per il 16 di giugno. Si poteva benissimo rimandare di 15 giorni sperando che la situazione di emergenza cessi per quelle realtà, si possa ripristinare la vita civile normale, quella produttiva, e poi noi faremo quella iniziativa che reclama un fisco più giusto, un'economia più adatta alle aspirazioni degli italiani. Siamo fermi e non possiamo stare fermi, e quest'altro guaio che ci è capitato come italiani, sì, è acqua bollente su ciò che era già molto cotto. Ma senta, lei per quel che riguarda un'altra manifestazione di cui si discute avrebbe per esempio annullato, non è ovviamente una sua decisione, o comunque avrebbe modificato la parata invece del 2 giugno, quella della festa ufficiale della Repubblica? La Repubblica è la festa della Repubblica, non certamente delle Forze Armate, e obiettivamente bisogna dirlo, non capisco questo conformismo, che le parate militari oramai non si fanno in nessuna parte d'Europa, al massimo qui e lì per l'Europa abbiamo sfilate storiche con divise storiche dei vari eserciti appunto che furono, ma parate militari con tanto di cingolati, con tanto di missili o con tanto di persone che sfilano in quel modo, obiettivamente il ricordo di tutti noi sarebbe un ricordo di parate sovietiche. Non c'è neanche in Europa un posto dove si dà quel, quindi si poteva ben rimuovere secondo me, approfittando anche di questo fatto luttuoso. Non è un problema solo di soldi, che pure è importante, è un problema di segni, quindi anche di simboli, proprio di segni veri e propri, insomma, no? Sì. Si dice che noi dobbiamo tenere in piedi il nostro esercito, benissimo, per le missioni di pace, benissimo, ma una parata è un'altra storia. Questa è un'opinione mia personale, obiettivamente non ho mai capito, obiettivamente anche in altri momenti, queste esplicitazioni appunto di cose del passato, obiettivamente. Secondo me molti giovani ridono di fronte a fatti del genere. Senta, Bonanni, molte persone che hanno perso la vita in questo giorno erano lavoratori. Il procuratore capo di Modena ha parlato di politica suicida sul tema sicurezza, il presidente di Confindustria Squinzi ha parlato di polemiche artificiose. Lei come interpreta questa vicenda e qual è la sua posizione? Ma a noi non piacciono le polemiche, soprattutto quando ci sono problemi così brucianti come quelli del terremoto, che mettono a dura prova famiglie, lavoratori, imprese, una realtà molto produttiva del paese, che è bene che mantenga la sua capacità produttiva. Quindi non vogliamo fare polemica, però si giustificava tutto sommato il silenzio che noi abbiamo garantito purtroppo sulle prime vittime del lavoro. Io stesso sono stato l'altro ieri a Ferrara al funerale del povero Nicola Cavicchi, che era un nostro delegato sindacale della CISL, morto appunto sul lavoro. Nessuno poteva prevederlo, tra l'altro tutte le mappe oramai, anche se in altre epoche ci sono stati terremoti, penso a quello del 500, dicevano e dicono che quella non è zona sismica e quindi era tutto imprevedibile, tutto congiurava a che non si potesse pensare a un rischio di quel tipo. Ma la seconda volta è già un'altra discussione, secondo me si potevano evitare con più cautela. Io capisco che mantenere in piedi, questo è importante, molto più importante di quello che si dice, mantenere in piedi le attività produttive sono fondamentali, le comunità si costruiscono attorno a quello che le comunità producono, certamente, però una maggiore cautela, non si può mandare allo sbaraglio le persone e farle morire sotto le macerie. Senta, invece il governo per reperire i fondi ha tra le altre cose previsto l'aumento delle accise sulla benzina, una decisione che voi come sindacati avete contestato, perché? Perché si va a colpire ancora con una nuova tassa tutti gli italiani? Nella sostanza e nella forma non va bene, la sostanza è che non si può aggravare ancora di più le persone, la forma è oramai evidente che è sbagliata, ogni volta si ricorre sulle tasse, cioè ogni esigenza che c'è si ricorre sulle tasse. Sì. E sulle tasse che si mettono su prodotti di consumo popolare, insomma, si vuol capire o no che la gente non ne può più, è caricata come sono caricati come muli di tasse di tutti i tipi, di tasse dirette e di tasse indirette. Dirette, lavoratori e pensionati, perché pagano fino all'ultimo centesimo con la ritorno alla fonte, e indiretta attraverso tutti i prodotti che compriamo e la benzina, che già non si giustifica in Italia per il prezzo che ha, e noi non finiremo mai di sottolineare che c'è qualcosa che non va nella vicenda dei carburanti italiani. Che cosa secondo lei? Che ci sono prezzi che vengono composti al di fuori di una regola sostanziale di concorrenza. Noi lo abbiamo ribadito, denunciato più volte questi aspetti. Quindi caricare ancora la benzina, che è arrivata al livello che sappiamo, credo che sia un errore. Si poteva benissimo, per quel che ci riguarda, lavorare, e io spero che il governo lo faccia, fino adesso è stato molto in silenzio su questo, su una revisione profonda degli assetti istituzionali, troppe istituzioni, troppe. Risparmiare lì, per esempio. Troppe amministrazioni, e credo che un cosiddetto piano industriale del governo lo dovrà presentare, quello è il problema, altro che il pubblico impiego e così via, che sta lì non diretto, non gestito. Il punto vero è quello e non finiremo anche questo. Mi faccia fare l'ultima domanda sulla questione degli esodati. Voi chiedete che vengano coperti, diciamo, tutti, non solo i 65.000 previsti dal decreto, ma come trovare le risorse, Bonanni? Ma le risorse ci sono, vorrei ricordarlo, che la riforma delle pensioni, che permette alla Fornero di dire che ha raggiunto il Guinness della riforma più drastica d'Europa, che ha superato chiunque altro, che mette nelle casse previdenziali ben 140 miliardi in 10 anni di risparmio, poteva e può ben utilizzarli così. Estrapolare una piccola somma per sostenere i diritti di coloro che hanno agito insieme alle imprese, lavoratori e imprese, rispettando e utilizzando le leggi della Repubblica. Se il ministro Fornero ha fatto una riforma che nessuno mai ha fatto, e cioè senza calcolarne l'impatto, senza calcolare un requisito che sempre in questi casi, in qualsiasi posto del mondo si utilizza, che è quello della transizione, perché se si fa un accordo di esodo a novembre, quell'esodo va in funzione a marzo, ad aprile, a luglio. Lei non può, in corso d'opera, senza transizione, intervenire, perché ha fatto decine e decine e decine di migliaia di persone che non sono né pensionati e né lavoratori. È un arbitrio, somiglia molto l'arbitrio. Certo, le leggi non lo fanno diventare un arbitrio, ma la sostanza è che è arbitrio, si cambiano le regole mentre c'è in vigore una legge dello Stato. Ecco perché noi salutiamo con molta soddisfazione l'attenzione che ha garantito ieri a noi la Commissione parlamentare, che ha proposto, fa un emendamento e chiede che le regole utilizzate fino al 31 dicembre vanno sostenute attraverso il riconoscimento del diritto per i lavoratori che hanno operato nel rispetto appunto della legge stessa. È un fatto molto importante, spero che il governo, spero che la Fornero ascolti questo, accolga. Io capisco che chi ha fatto un errore così madornale lo voglia difendere, però sbagliare è umano, perseverare, come si dice, è diabolico. Io intanto la ringrazio, Raffaele Bonanni, per essere stato con noi, segretario generale della CISL. Grazie, ovviamente, buona giornata. E noi ci fermiamo qui con la pubblicità e il meteo, ma ripartiamo dalle polemiche. L'aumento dell'accise sulla benzina e di 2 centesimi al litro. La questione della parata del 2 giugno, ci ha detto Bonanni poco fa. I giovani, secondo lui, ridono di questa parata. 24 mattino. Allora, alle 8.39 minuti, eccoci qua dopo Raffaele Bonanni, che ci ha detto, tra l'altro, secondo Lumè, i giovani ridono della parata del 2 giugno, che non ha più alcun senso. E sull'accisa della benzina ne parliamo con due onorevoli, un senatore per la verità, Elio Lannutti dell'Italia dei Valori. Senatore Lannutti, buongiorno. Buongiorno. Saluta anche l'onorevole Gianfranco Paglia di Future Libertà. Buongiorno, onorevole Paglia. Buongiorno. Tra l'altro, una vita passata nell'esercito, vorrei proprio partire da lei, non so se non era in collegamento, ma non so se ha avuto modo di sentire. Comunque Bonanni ha detto le parate non hanno più senso, come quella del 2 giugno, i giovani ridono di queste cose. Lei, che ha passato una vita nell'esercito, ricordiamo anche l'onorevole Paglia, ha fatto missioni all'estero, tra cui quella in Somalia, in cui i nostri militari furono attaccati, lei è rimasto gravemente ferito. Che ne pensa, onorevole Paglia? È una pagliacciata il 2 giugno? Ma molto probabilmente il senatore non ha mai partecipato alla manifestazione del 2 giugno, quindi non si è mai reso conto di quanta gente c'è lì, di quanta gente sventola il tricolore, perché comunque la cosa importante da ricordare è che quella non è la festa delle Forze Armate, ma la festa della Repubblica. Certo, modo per, questo sì. Per ricordare e per sentirsi tutti quanti uniti. Che ne pensa delle polemiche sul 2 giugno? La festa sobria, la rete, il popolo di Twitter che addirittura ha eletto a eroe Forlani, che nel 76 la annullò. Ma tra l'altro Forlani ha detto oggi non l'avrei annullata, ha fatto bene Napolitano. Che ne pensa di queste polemiche sul 2 giugno? Penso che siano abbastanza pretestuose, anche se rispetto, io ho sempre rispettato le idee di tutti, però io penso che in questo momento, cioè, anche loro comunque in un certo qual modo dovrebbero rispettare chi in queste cose ci crede e ha dato la vita senza se e senza ma. Senatore Lannutti, lei sul 2 giugno che avrebbe fatto? L'avrebbe... Però chiariamo subito una cosa, senatore, quei soldi sono già stati spesi, sono 3 milioni di euro. Poi io dico, ma è mia idea personale, uno Stato che deve raccattare dell'elemosina annullando delle manifestazioni, invece di dire reagiamo, aiutiamo i terremotati, ecco come lo facciamo, così vi stiamo al fianco. Non è uno Stato che è già fallito, uno Stato che deve raccattare dell'elemosina qua e là? Ma questo, diciamo, non è solo lo Stato, ma è un governo che non è proprio in sintonia con il Paese. Voglio ricordare che è figlio della dittatura degli spread, dei mercati, e il governo di Goldman Sachs, della Trilateral, che adesso sta smantellando quei diritti minimali che erano sanciti nell'articolo 18. Basta vedere. Adesso lei dice che c'è il torniamo al complottone, insomma. Cioè... Altro che complottone, qui non è che c'è complottone. Guardi che io faccio parte di una delegazione NATO da un po' di tempo. L'ultima riunione l'abbiamo fatta a Tallinn e la prima riunione a Washington, quando accusai non il complottone, ma le banche d'affari e i banchieri centrali veri e propri criminali seriali di emettere denaro dal nulla, 700 mila miliardi di derivati, abbiamo visto JP Morgan tra i 3 e i 10 miliardi, allora vado in tutte le riunioni, intervengo in tutte le riunioni e l'ultima a Tallinn, domenica scorsa, ho avuto per fortuna, dopo aver detto che l'ortodossia monetaria tedesca non va da nessuna parte, che Hollande forse ridarà la speranza, ho avuto ragione addirittura da uno dei più stretti collaboratori di Angela Merkel, dicendo non siamo eletti dai mercati, dagli spread e dei derivati, ma dal popolo. Ritornando al 2 giugno, infatti, perché... Però questa è la premessa. Questa è la premessa, secondo me. Chi ci ha portati in questa situazione? Guardi, dovevano ridurre gli spread, sono ritornati peggio di prima. Questo sì. No, però mi dica del 2 giugno, poi magari ci arriviamo. Il 2 giugno, io con tutto il rispetto per tutti, per gli eroi, per quelli che hanno fatto le battaglie per la democrazia di questo paese, avrei annullato in segno di lutto. Perché non è tanta la questione di quei 3 milioni di euro che si possono meno risparmiare, ma bisogna anche, diciamo, rispettare il dolore di quella gente, però è la festa della Repubblica, cioè effettivamente non è la sfilata delle forze armate il 4 novembre, è la festa della Repubblica. La festa della Repubblica si può annullare per un fatto di emergenza come quello che è accaduto. Ok. Cioè, cosa vuol dire? Si annulla la festa? Cioè, la festa rimane, ma la gente, si annullano le manifestazioni, diciamo. Si annullano... Certamente, questo è il mio pensiero, io poi rispetto quello degli altri. Infine, se mi permette, anche il fatto che noi ogni piccola cosa che ci andiamo ad attingere alla benzina, ai carburanti, dal 35 la Abissinia, Suez 56, Vaion 63... E fino a Salva Italia, terremoto Emilia Romagna, noi abbiamo i prezzi delle benzine più care d'Europa, ma abbiamo la legge Mancia, che l'Italia dei Valori non ha mai attinto, ha sempre dall'inizio, perché io sono 4 anni che sto in Parlamento e con questa legge elettorale non credo che ci ritornerò, perché non mi ricandiderò con questa legge elettorale. Si può, diciamo, noi l'abbiamo destinata all'ammortamento del debito pubblico. La legge Manzo, ma non metta un attimo anche la legge Manzo. Tra l'altro sulla benzina ci arriviamo, però per la legge Manzo c'è anche un'altra cosa, cioè quella che dà la possibilità ai parlamentari di dare ai propri, no, ai propri collegi elettorali, che tra l'altro non servono più visto che sono le liste bloccate, delle prebende per sistemare chi l'oratorio, chi la fanfara del paese, chi la parrocchia. Però onorevole Paglia, poi così chiudiamo la questione 2 giugno, magari parliamo di benzina dopo il traffico. Queste polemiche, dice, si poteva annullare per questione di lutto. Effettivamente quella è una sfilata, dove è una sfilata di gioia, di festa, dove sfilano le parti delle forze armate. È compatibile questo con il clima di dolore attuale? Premesso che voglio ricordare che il 2 giugno è sempre stata dedicata a qualcosa o a qualcuno. a sfilare, sfilano anche la Croce Rossa, la Protezione Civile, cioè gente che in questo momento, e non solo in questo momento, ha sempre lavorato e aiutato l'Italia in qualsiasi emergenza, sfilano anche i Vigili del Fuoco, ma al di là di questo, il 4 giugno sarà il lutto nazionale. E quindi forse è lì che dovremo ricordare in silenzio chi non c'è più. Sì, certo, è stato proclamato lutto nazionale. Quindi lei è d'accordo sulla sobrietà però di Napolitano? Perché, guarda, anche perché, però secondo me è una decisione anche questa un po', uso questa parola dura ma lo dico io, un po' mezza ipocrita, cioè si sfilerà ma no le frecce tricolori e no i cavalli, ma dai, ma che scelta è, voglio dire? È molto, cerco di spiegarla. Sia più diplomatico lei. Quasi 3 milioni di euro sono stati già comunque investiti per la parata, e quindi dal momento che era stato chiesto una certa sobrietà e un certo risparmio, anche questo può essere visto nell'ottica di non far arrivare a Roma i mezzi corazzati, non far arrivare a partire da Udine le frecce tricolore. Quello potrebbe essere comunque un modo per dimostrare che quello che poteva essere risparmiato verrà risparmiato così. Allora, le informazioni, è giusto anche dire che sin da subito era stato detto che la parata del 2 giugno sarebbe stata ridotta. Sì, il risparmio, il ministro Di Paolo aveva già detto che quest'anno si risparmiava già 1,5 milioni, credo, di euro. Allora, senatore Lannutti, io facevo prima questa battuta: finirà questa benedetta guerra d'Etiopia? Finirà la crisi del canale di Suez, in modo che riprenderemo la Abissinia, non lo so, in modo che così chiuderemo questo contenzioso e finiremo di pagare le accise sulla benzina? Qui le faccio un bell'assist. Dica quello che vuole su questa cosa della benzina e del ministro Passera, che si è appellato ai petrolieri: compensate voi l'aumento dell'accisa. L'ascolteranno i petrolieri? Siamo freschi, se i petrolieri possano ascoltare, insomma, il ministro Passera, non credo che l'ascolteranno. Ripeto, è dal 35 ogni emergenza si arriva sulla benzina, mentre ci sono altre possibilità. Per esempio, c'è anche questa tranche di finanziamenti ai partiti che arriveranno a giugno. Anche qui si potrebbe fare qualcosa, oltre a quello che dicevo prima, ossia questa legge mancia, che è uno scandalo. L'ha introdotto il governo Prodi, l'ha rafforzato il governo Berlusconi, ed è uno scandalo. Però quelli sono soldi che sono già a bilancio, credo che non siano soldi in più, sono soldi che altrimenti finirebbero nel calderone delle spese. No, non è vero, non è vero. Basterebbe fare, ieri abbiamo fatto una conferenza stampa con il presidente Di Pietro, l'onorevole Borghesi, noi abbiamo presentato alla Camera un emendamento per spostare questi soldi dalla disponibilità scandalosa dei deputati, perché siamo nominati, e certo. Quindi per questo bisogna cambiare la legge elettorale, e quindi ci sarebbero almeno 250 milioni, abbiamo fatto i conti ieri, per le prime emergenze. Questo perché ve la prendete appunto col 2 giugno, che sarebbero 3 milioni neanche risparmiati? Solo una questione di simbolo a questo punto. Di lutto, di sobrietà, non si festeggiano le tragedie, si sospende la festa sulle tragedie. E ripeto, mi conoscono tutti, io non sono un politicante, sono uno che continua a fare il proprio lavoro, fra un po' andrò sotto la Banca d'Italia da 25 anni, perché tutto il cuore dei problemi si chiamano Mario Draghi e la Banca d'Italia. Accidenti, ma lei ce l'ha proprio con i banchieri, con Monti, ce l'ha proprio a morte, no? Io sono 25 anni, lo so. Anni. Siamo stati manganellati sotto la Banca d'Italia, perché che si chiede? Maggiore trasparenza. Ma è possibile che uno come Ponzellini abbia dato 150 milioni di euro a un signore secondo l'accusa è un poveraccio, secondo l'accusa, facciamo impiccare, non gli si danno 10.000 euro. Beppe Grillo, siamo garantisti, siamo 30%, siamo il primo partito, siamo garantisti, però l'annuncio. Ma che garantisti? No, che garantisti? Siamo garantisti, questa è l'accusa, cioè non è che Ponzellini. 150 milioni di euro dati a un signore che aveva sede nelle isole Caiman. È l'accusa, ma questa. Garantisti? E beh, ma scusi, l'accusa, Lannutti, ma che, cioè, voglio dire, no, ha già fatto il processo, ha già emesso la condanna. I soldi sono stati dati su quelle lì non ci sono. Vabbè, sì, diciamo, si vedrà se è stato corretto. No, certo, ha colpito anche me. Però le vorrei chiedere questo, senatore. No, questo ce lo deve dire, perché mi hanno detto dalla redazione che è vero, ma io non ci voglio credere, lo voglio chiedere a lei. È vero che lei sta per fare una interpellanza, un'interrogazione parlamentare sul tema della una delle ipotesi del terremoto? Mi dica che non è vero, potrebbe essere il fracking, cioè il fatto delle trivellazioni del terreno per cercare, credo, il gas o le risorse sotto. Mi dica che Guardi, non è vero. Che l'interrogazione è già stata presentata, sta sul mio sito. Però non mi dica che lei crede a questa cosa del fracking. Ci sono delle versioni scientifiche, alcuni che diciamo danno questa versione anche negli Stati Uniti d'America e altri che la negano. Insomma, ci sono diciamo queste due versioni. Cioè, le trivellazioni del terreno potrebbero avere causato il terremoto. Capisce che però è poco. Guardi, io non è che sono uno che ha la certezza. Io ho chiesto se dei tra dubbi. Le ipotesi ci possa essere anche questo. Ma il terremoto è il terremoto, cioè le ipotesi. Un terremoto purtroppo quando arriva colpisce in tutto il mondo, non è che. Ma guardi, basta andare a vedere su Google e si vede che ci sono queste ipotesi su alcuni scenari che si sono realizzati. Io non dico di credere a questa versione. Anche perché però, mi permetta, su Google c'è un po' di tutto, ci sono anche i Maya, ci sono le profezie dei Maya, ci sono anche delle cose poco credibili, non è che dobbiamo. No, guardi che la rete ama la verità e gli inganni vengono scoperti. Quindi, poiché io insomma seguo sempre quella che questo strumento di democrazia che consente anche a un comico di essere più credibile della politica, come Beppe Grillo. Lei non è più nell'Italia dei Valori, lei si mette nel Movimento 5 Stelle, non è più nell'Italia dei Valori. No, io no, assolutamente, io sono indipendente, io sono un senatore indipendente, perché io ho fondato l'ADUSBEF 25 anni fa, lavoravo in banca. Detto. E quando Di Pietro mi ha chiesto di candidarmi, lo ringrazio, ho detto i diritti non hanno colore. Certo, indipendente, ma nell'Italia dei Valori. Non però sono iscritto. E io no, la verità, la giustizia. Vabbè, adesso, questo ovviamente è la sua opinione. Mi faccia concludere con l'onorevole Paglia, non la voglio tirare dentro su questioni di fracking, eccetera, onorevole Paglia. No, ma era divertente. No, vabbè, lei ovviamente il 2 giugno sarà ai Fori Imperiali. Sì, ci sarò e porterò con me mia figlia, perché comunque credo che sia giusto che anche lei possa crescere con dei sani valori. Ecco, l'idea di dire non si deve festeggiare, cioè non si sentirà in imbarazzo di lei, che ripeto, no, anche lei, perché non ho mai inteso il 2 giugno come un festeggiamento, ma per me è una data per ricordare la nascita della Repubblica e per ricordare comunque chi in qualsiasi modo ha sempre cercato di fare qualcosa per gli altri, in Italia o all'estero. Io su queste parole mi fermo, vi ringrazio intanto l'onorevole Gianfranco Paglia, deputato di Future Libertà, e il senatore Elio Lannutti, indipendente ma eletto con l'Italia dei Valori, per essere stati con noi. Andate su Twitter, @AlinoMilan, sono io, @24mattino è la trasmissione. E, che dire, ringrazio tutti, da Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni, Diego Rovelli in redazione e anche il nostro alpino Peter Bescapè con la penna nera. Forse sarà a Roma. Intanto ci troviamo domattina alle 7:20. 24 mattino.